Francia, lo so, vi devo questi di libertà brevi momenti. Se quest'ombra di bene accorda il mio nemico per placar l'ira mia, già la rifiuto. Che non vuo libertà da lui che appena saria degno portar la mia catena. Il vostro odio, signor, fa dell'oblio. Siete in poter del tavernano. Vuoi morire? Ed Asteria? Non mi svegliate in petto, nuovo affetto, che abbattere potria la mia costanza. Son risoluto e vuo morir. Asteria, la raccomando a voi. So che vi è cara, v'ami per me. Ma si rammenti poi d'odiare il Tamerlan quanto ama voi.